24 ore, edizione extra large. Frane sulla Salerno-Reggio Calabria, 60 km di autostrada bloccati, fermi i treni fra Battipaglia e Potenza. Nuovo caso di negazionismo fra i lefebriani, un prete a Treviso dice le camere a gas usate solo per disinfettare. Non ho mai offeso il capo dello Stato, dice Di Pietro, ma nell'Italia dei valori Donadi si smarca, Napolitano è super parte. La Francia si ferma, sciopero generale contro le riforme economiche volute da Sarkozy. Ancora tensioni a Gaza, missili sul sud di Israele che risponde con un raid. In carcere il progettista del T-Raid, che rileva le infrazioni ai semafori, 108 le persone indagate, il sistema non era omologato. Una buona giornata da Simone Spezia e da Alessandra Tedesco. E benvenuti a questa nuova edizione del GR Extra Large, che apriamo parlando di queste nuove frane che stanno interessando il Sud Italia. Sì, interessano il Sud Italia, in particolar modo la Calabria, dove le piogge delle ultime ore stanno creando molti disagi. 60 chilometri della Salerno-Reggio Calabria dell'autostrada sono infatti chiusi al traffico. Ma per tutti gli aggiornamenti la parola va a Cristina Carpinelli. Sì, buongiorno. Sono ancora al lavoro le ruspe della Protezione Civile del comune di Tropea dopo la violenta frana di questa mattina, una frana di terra e fango che si è abbattuta all'uscita di una galleria di una strada provinciale del Vibonese. È avvenuto, dicevamo, questa mattina all'alba, attorno alle 5, per questo, quindi per una pura casualità, non sarebbero coinvolte persone, anche se, come sentirete nell'intervista che abbiamo realizzato, si sta lavorando per avere la conferma che non vi siano vittime. Sul luogo i vigili del fuoco, le ruspe che stanno cercando di sgomberare i detriti. Abbiamo raggiunto poco fa il capo dell'ufficio tecnico del comune di Tropea, Francesco Grandi. Qui siamo proprio in stato d'allerta, c'è la Protezione Civile, Vigili del Fuoco, ci stiamo qui all'impianto di depurazione che stiamo facendo di tutto per evitare che l'acqua e tutto quella fanghiglia entri all'impianto di depurazione, perché se ci salta l'impianto siamo fregati. Ci sono stati dei feriti? Pensiamo di no, però al 90%, perché avevamo visto prima un copertone di una vespa, di un motorino e un pezzo di macchina, però sicuramente può darsi che erano pezzi di macchine vecchie. Però stanno lavorando, appunto, come dicevo prima, su due fronti per vedere che non ci sia qualcuno sotto. Ci auguriamo di no. Ma come mai è avvenuta questa frana? È un periodo abbondante che sta piovendo più non posso, quindi non, al momento disconosciamo i motivi. Non sono andato a vedere le cause a monte. I lavori intanto continuano, si dovrebbe arrivare a sbloccare la strada entro oggi e sempre oggi a Catanzaro si svolgeranno i funerali della seconda vittima del disastro avvenuto domenica scorsa sulla A3 nel Cosentino. Sulla stessa autostrada rimangono, come dicevate, molti disagi con oltre 60 chilometri chiusi al traffico per frane o pericolo frane. E per ora è tutto. Grazie Cristina Carpinelli. E ora passiamo a parlare di una frase che, consentitecelo, è veramente allucinante. E sono parole pronunciate in un'intervista alla Tribuna di Treviso da Don Floriano Abramovic, capo della comunità dei Lefebriani del Nord-Est. Alessandra, che cosa dice? Lui dice: io so che le camere a gas sono esistite almeno per disinfettare, ma non so dire se abbiano fatto morti oppure no, perché non ho approfondito la questione. Le dichiarazioni del prelato che rifiuta di definirsi antisemita riaccendono la polemica sul negazionismo dopo il mea culpa pronunciato dal leader del movimento tradizionalista all'indomani della dichiarazione di Monsignor Williamson che negava l'esistenza delle camere a gas. Don Floriano, c'è da dire che è un personaggio abbastanza noto in Italia, è la persona che ha benedetto l'inaugurazione del Parlamento del Nord a Vicenza ed è il parroco di Padania Cristiana, movimento fondato da Mario Borghezio. Ma c'è anche un intervista di qualche mese fa. Sì, siamo andati a ritrovare un'intervista che aveva rilasciato la trasmissione televisiva Anno Zero. In questo caso il riferimento è a Erich Priebe, che lo ricordiamo, il capitano dell'SS che durante la Seconda Mondiale era stato responsabile appunto della pianificazione, della realizzazione, fra l'altro anche della strage delle fosse ardiatine. Allora sentiamo che cosa dichiarava in quell'intervento Don Floriano Abramovic. Vedo che qui lei ha addirittura l'autobiografia di Erich Priebe, sì, che è il boia delle Ardeatine, quello che ha fatto uccidere, se non ricordo male, 335 persone. Boia, purtroppo, è uno dei più tristi aspetti della guerra, quello delle rappresaglie, e chi lo fa con rammarico e col cuore pesante, non gli darei l'epiteto boia. E queste sono Altre parole allucinanti, ci sembra, da parte di Don Floriano Abramovic, materiale naturalmente su cui riflettere. Passiamo alla politica, Alessandra. Sì, passiamo alla politica, perché le parole di ieri di Antonio Di Pietro sulla Presidente della Repubblica stanno facendo ancora discutere. Elisabetta Fiorito, allora, ci sono delle spaccature però all'interno dell'Italia dei Valori? Sì, ci sono delle spaccature, perché per esempio c'è stato a un certo punto Donati che ha detto no, non condivido Di Pietro, però sembra invece che adesso riprenda e dica nessuna divisione con Di Pietro. Comunque stamattina Antonio Di Pietro si difende e dice io non ho offeso nessuno. Questo dopo la bufera scatenata contro il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che ieri Di Pietro ha accusato di non essere arbitro e di silenzi sul fronte della giustizia. L'Italia dei Valori combatte la mafia, i criminali, dice l'ex PM, e ha il massimo rispetto del capo dello Stato. Il silenzio è un comportamento mafioso, spiega Di Pietro, e lo ribadisco, ma non tiriamo per la giacchetta il Presidente della Repubblica. Non ho offeso Napolitano, bensì ho ripetuto il sacrosanto appello dell'associazione Vittime di Mafia, che vedono con dolore e preoccupazione il silenzio che c'è nella lotta alla criminalità organizzata. Non esiste, assicura Di Pietro, un conflitto tra Italia dei Valori e Quirinale. Non c'è nulla da chiarire. Da parte del PD invece si chiede che Di Pietro si scusi con il Presidente della Repubblica. Lo dice Piero Fassino, le sue affermazioni sono al di là del bene e del male, ma Fassino respinge anche il tormentone sull'alleanza tra PD e DV. Dal Popolo della Libertà invece Fabrizio Cicchitto continua a chiedere la scissione dell'alleanza politica tra PD e Di Pietro. Insomma, abbiamo visto un passo indietro comunque dell'ex PM. A voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito. Passiamo ad una notizia di questa mattina, un'indagine che si è conclusa e con degli aspetti, diciamo, interessanti. Sì, aspetti interessanti. Molti forse si ricorderanno tutta la polemica che era stata fatta sul cosiddetto T-RED, e cioè uno degli strumenti di controllo del traffico. Nel momento in cui si passa col rosso, insomma, viene subito rilevata l'infrazione. Ma c'erano state molte polemiche sul fatto che il giallo durava troppo poco e così molti automobilisti si erano visti comminare una multa giudicata ingiusta. Sì, in pratica una macchina da soldi per i comuni, e non solo a quanto pare. Il progettista è finito in manette, le strumentazioni sono state sequestrate in molte località. 64 i comuni coinvolti, prevalentemente in Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. 108 gli indagati, tra cui amministratori pubblici, privati e 63 comandanti di polizia municipale. Oggi la notizia dell'arresto dell'amministratore unico della CRIA di Desio, in provincia di Milano, Stefano Arrighetti, con l'accusa di frode nelle pubbliche forniture. Il produttore dei T-RED, i cosiddetti semafori intelligenti, in grado di rilevare il passaggio con il rosso degli automobilisti, non avrebbe infatti mai chiesto l'omologazione dell'hardware al Ministero dei Trasporti. Risultato, durate del giallo troppo brevi e una valanga di multe ad automobilisti ignari dell'esistenza del sistema automatico. L'inchiesta della Procura di Verona era partita un anno fa sulla scia del ricorso preparato a Biella dall'avvocato Giovanni Bonino, il primo a scoprire la mancata omologazione dell'apparecchiatura. I comuni erano stati indotti a stipulare un accordo con le società che hanno distribuito il T-RED in modo da ripartire i proventi delle multe in modo proporzionale tra loro. Quindi la società che ha distribuito il T-RED aveva un interesse particolare a che fossero contestate il maggior numero di multe. Si configura dunque una truffa da parte della società produttrice ai danni dei comuni, oltre che degli automobilisti, ma l'inchiesta riguarda anche possibili collusioni tra amministrazioni locali, produttori e, in prospettiva, eventuali omissioni o connivenze dentro il Ministero dei Trasporti. Nel frattempo, in che modo possono rivalersi gli automobilisti penalizzati? Ancora l'avvocato Bonino. È chiaro che a questo punto potrebbe nascere un diritto dei singoli multati a costituirsi parte civili, perché sicuramente sono stati danneggiati da una azione che, salvo verifica giudiziale, al momento si presenta come illecita in modo penalmente rilevante. Roberta Pellegatta, GR24, Il Sole 24 Ore. Ora vi parliamo di un compleanno speciale, di una splendida cinquantenne. Sentite un po' chi è. 50 anni, un'età critica per ogni donna, a meno che la signora in questione non tema i cedimenti dell'età perché è fatta di plastica e non si chiami Barbie. Era il 9 marzo 1959 quando Barbie fece il suo debutto alla Fiera del Giocattolo di New York. Mai prima di allora una bambola aveva avuto le fattezze di una giovane donna, solo quelle di un neonato. Fu un successo mondiale, oltre 300.000 pezzi venduti in un anno. Ad oggi hanno superato quota 1 miliardo, messe in fila una accanto all'altra, le Barbie vendute in questi 50 anni coprono 7 volte il giro del mondo. Se ne vende una ogni 2-3 secondi per un giro d'affari complessivo di oltre 3 miliardi di dollari. Un compleanno che la Mattel si prepara a celebrare in grande stile a partire dal 14 febbraio prossimo, quando alla settimana della moda di New York sfileranno 50 modelli ispirati alla Barbie firmati da altrettanti stilisti di fama mondiale. Alle voci di declino del modello Barbie minacciato dalle agguerrite concorrenti come Bratz e Winx, Daniela Pavone, direttore marketing Mattel Italia, risponde così. Ci sono stati dei fenomeni negli ultimi anni che sono passati in un breve lasso temporale, devo dire. Barbie è più forte che mai, c'è stato un calo nel passato, ma il 2008 è stato decisamente positivo. Si dichiara grande fan di Barbie Michelle Hunziker, che rivendica il potere delle bionde. All'epoca, non so se vi ricordate, si diceva però le bambine vogliono assomigliare alla Barbie, è un trauma. Ma de che? Ma sono altri traumi, dai. Tutte ste barzellette sulle bionde, basta. Blonde like stupid, non è vero, cioè, anzi. La rivincita delle Barbie, delle bionde, delle donne. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. C'è un nuovo caso che riguarda la fraternità di San Pio X, ossia le Fevriani. In un'intervista alla Tribuna di Treviso, Don Floriano Abramovitz dice che l'unica cosa certa è che le camere a gas furono usate per disinfettare, mentre non è certo che siano state usate per uccidere. Don Floriano, vicino alla Lega, è il capo della comunità Lefevriana del Nord-Est e del parroco che ha benedetto il Parlamento del Nord a Vicenza. Maltempo al sud, a Tropea in Calabria, una frana si è staccata dal costone che sovrasta la cittadina all'uscita di una galleria. Si scava per liberare la strada, ma anche per verificare che nessun automobilista sia rimasto coinvolto. Francesco Grandi, capo dell'ufficio tecnico del comune di Tropea. Siamo qui all'impianto di depurazione, che stiamo facendo di tutto per evitare che l'acqua e tutta quella fanghiglia entri all'impianto di depurazione, perché se ci salta l'impianto siamo fregati. Spaccatura nell'Italia dei Valori dopo le parole di ieri di Di Pietro. Donadi dice: il capo dello Stato si è mosso bene. Lo stesso Di Pietro sostiene di non aver mai offeso il Presidente della Repubblica. C'è un nuovo caso di stupro avvenuto nel Piacentino. Una banda di 3 romeni ha sequestrato e violentato una prostituta di 21 anni. La Francia si ferma, oggi sciopero generale, 200 manifestazioni in tutto il paese per protesta contro le riforme volute dal governo. Il picco delle adesioni è previsto nella scuola. Negli Stati Uniti la Camera dei Deputati ha approvato nella notte il piano di stimolo dell'economia proposto da Barack Obama. Ora il provvedimento, da 825 miliardi di dollari, passa al Senato. Rimane l'ostacolo dell'opposizione repubblicana. Il presidente spera che il sì definitivo possa arrivare con un appoggio bipartisan. Nuove tensioni in Medio Oriente, dove questa mattina sono stati lanciati razzi contro il sud di Israele. Tel Aviv ha risposto con un raid aereo che ha colpito, dice l'esercito, un esponente di Hamas. È stato arrestato il progettista dei T-Raid, sistemi di rilevazione delle infrazioni ai semafori. Stefano Arrighetti ha accusato di non aver chiesto al Ministero dei Trasporti l'omologazione dell'apparecchiatura, che sfruttando una durata del giallo molto breve faceva scattare un numero elevato di multe. Sentiamo l'avvocato Giovanni Bonino di Biella, dal cui ricorso è partita l'inchiesta di Verona. I comuni erano stati indotti a stipulare un accordo con le società che hanno distribuito il T-RED in modo da ripartire i proventi, quindi la società che ha distribuito il T-RED aveva un interesse particolare a che fossero contestate il maggior numero di multe. La Capitaneria di Porto di Genova ha aperto un'inchiesta sull'incendio scoppiato ieri a bordo di un traghetto della Tirrenia appena partito e diretto a Porto Torres. Le fiamme si sono sviluppate nella stiva, forse da un camion. La nave è rientrata in porto e i 124 passeggeri sono stati messi in salvo. Andiamo ora in Medio Oriente. Nella striscia di Gaza sembra non reggere questa fragile tregua. Stamattina infatti sono ripresi i lanci di razzi sul territorio israeliano ed è arrivata naturalmente la risposta di Israele, che ha compiuto un raid a Khan Yunis. In diretta da Tel Aviv, Ugo Tramballi. Allora, quali sono le conseguenze di questi ultimi avvenimenti? La situazione è sempre stata tesa sin dal primo giorno del cessate il fuoco, quindi questo è il punto della tensione permanente di questo cessate il fuoco, il quale comunque ancora tiene nonostante tutto, perché il lancio di un razzo stamattina e la risposta di Israele, come la bomba dell'altro giorno, la risposta di Israele rientra in una specie di di, come posso dire, di linguaggio di questo cessate il fuoco. Ci sono alcune cose che sono ammesse senza che il cessate il fuoco debba essere messo in discussione. Queste cose, questi piccoli scontri sono ammessi, continueranno ad essere ammessi ancora per settimane, fino a che la diplomazia non riuscirà, e difficilmente per ora, come si stia dicendo, a trovare qualcosa di molto più concreto di un semplice cessate il fuoco momentaneo. Grazie Ugo Tramballi, in collegamento da Tel Aviv. È nella zona in queste ore il neo inviato americano in Medio Oriente, George Mitchell. Vediamo di capire chi è questo personaggio. I don't underestimate the difficulty of this assignment. Fresco di nomina, davanti al presidente americano e al suo governo, George John Mitchell ha dichiarato di non sottovalutare la difficoltà dell'incarico, perché la situazione in Medio Oriente è volatile, complessa e pericolosa. Il nuovo inviato speciale in Medio Oriente è stato senatore democratico dal 1989 al 1995. Nato da madre di origine cristiano-libanese e padre di origini irlandesi, Mitchell ha anche condotto un'inchiesta sugli steroidi nel baseball, ha mediato una disputa aziendale alla Walt Disney, dove ha ricoperto il ruolo di presidente, e ha svolto investigazioni sulle accuse di corruzione alle Olimpiadi, ma è noto soprattutto per aver presieduto in Irlanda i negoziati che portarono all'accordo del Venerdì Santo. Tra colpi bassi e ostruzionismi, Mitchell portò a termine trattative interminabili. In 18 mesi prese l'aereo 100 volte per attraversare l'Atlantico e lavorare all'accordo di pace per l'Irlanda del Nord, all'epoca lacerata dalla guerra civile tra cattolici repubblicani e protestanti unionisti. Mi sono convinto, in base all'esperienza fatta, che non esiste qualcosa come un conflitto che di per sé si può fermare. I conflitti sono creati, condotti e sostenuti dagli esseri umani, quindi possono essere fermati solo dagli esseri umani. L'ho visto accadere in Irlanda del Nord, sebbene, ammetto, ci è voluto molto tempo. Chi lo conosce dice che ha un buon carattere e molta pazienza, doti che sicuramente gli serviranno in Medio Oriente, dove lo attende una situazione ingarbugliata e dove la tregua è sempre più precaria. Mitchell dovrà mediare con l'obiettivo di rafforzare il cessate il fuoco, raggiungere una tregua che preveda un blocco al traffico d'armi e la riapertura dei valichi verso la striscia. Cristina Balotelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Ora andiamo in Francia, perché oggi è una giornata particolare. Sciopero generale, Simone. Sì, sciopero generale contro la politica economica del governo. Igor Fiatti, ti trovi, se non sbaglio, alla Bastiglia, da dove sta per partire il corteo. Dovrebbe partire tra una quarantina di minuti. La cronaca un pochino di questa giornata. Igor, che cosa succede in questo momento? Sì, buongiorno da Parigi. Mi trovo appunto a Place de la Bastiglia, dove si stanno srotolando gli striscioni e si montano le ultime casse, gli ultimi amplificatori, mentre i manifestanti si vanno via via assembrando. Parigi si sta così preparando a vivere la sua giornata di protesta. Il corteo partirà infatti tra poco più di mezz'ora, alle ore 14, e si snoderà fino a Opéra. Ma quello parigino è solo uno dei 200 cortei che attraverseranno il paese in questa giornata di sciopero generale, per chiedere misure urgenti a favore dell'occupazione e dei salari. Ricordiamo che oggi incrociano le braccia i dipendenti di molti settori, inclusi quelli del privato. Stando ai dati sulla circolazione, nei trasporti però non siamo di fronte al tanto temuto giovedì nero. Il picco della partecipazione dovrebbe invece registrarsi nell'educazione, che chiede sì garanzie sui salari, ma protesta anche contro i tagli previsti dal governo. Ad ogni modo, sembra che Nicolas Sarkozy non terrà in conto i numeri dello sciopero. L'inquilino dell'Eliseo ha difatti già detto di voler portare avanti il suo programma di riforme. E con questo per ora è tutto. Linea allo studio. Grazie Igor, naturalmente ci ricollegheremo con te nelle prossime edizioni del GR24 per avere appunto gli sviluppi di questa giornata di sciopero generale in Francia, sciopero del quale naturalmente si parla oggi sui giornali francesi. Giulia Crivelli. Buongiorno, nell'apertura della maggior parte dei giornali francesi, anzi di tutti i giornali francesi, persino di Le Monde, che è uscito ieri pomeriggio ma già annunciava questo sciopero, i titoli variano a seconda dell'orientamento del giornale. Quindi per esempio Le Figaro dice che il Partito Socialista vuole sfruttare questo sciopero. Lo sciopero è in un certo senso spontaneo, nel senso che non ha una matrice, appunto non è strettamente legato al Partito Socialista, ma piuttosto ai sindacati di ogni genere. Il Partito Partito Socialista in difficoltà e che sta cercando di fare dell'opposizione di successo a Nicolas Sarkozy, che comunque mantiene una grande popolarità, vuole, secondo Le Figaro, sfruttare questo sciopero. Liberation ce l'ha in prima pagina, tra l'altro con una grande vignetta. Liberation ha queste prime pagine in generale monopolizzate da una foto, oggi invece è una vignetta sempre sullo sciopero. Naturalmente si vedrà se poi appunto veramente la Francia verrà paralizzata. Dalle prime notizie, per esempio, negli aeroporti è andata un po' meglio del previsto. Giulia, andiamo in Spagna adesso perché c'è un tema che riguarda l'ormai eterno dibattito tra il governo Zapatero, diciamo, e il mondo religioso. Sì, prima si è parlato del crocefisso nelle scuole, ora si fa un ulteriore passo. Zapatero l'aveva promesso in campagna elettorale, lo sta lentamente mantenendo, una progressiva laicizzazione dello Stato, e con dei segnali molto forti, per esempio la reintroduzione dell'educazione civica nelle scuole, e che non era più insegnata da molti anni, e che potrebbe in un certo senso, secondo chi ha paura di questa misura, sostituire invece l'ora di religione, che comunque resta nella maggior parte delle scuole. E naturalmente la destra più legata alle gerarchie cattoliche e la Chiesa cattolica spagnola protestano per questa misura, perché lo vedono come appunto un ulteriore segno di questo allontanamento del governo dalle loro posizioni. Quindi grande tema di dibattito in Spagna. Grazie anche per oggi, Giulia Crivelli. Adesso, Alessandra, noi in realtà torniamo in Francia perché ci parli di un libro. Sì, vi parlo di un libro. Forse oggi anche le cassiere francesi saranno in piazza per lo sciopero generale, perché vi parlo di un libro pubblicato da una ex cassiera che si chiama Anna Sam e che ha avuto un grandissimo successo in Francia. Considerate che da giugno fino a dicembre ha venduto più di 100.000 copie. Si intitola Le tribolazioni di una cassiera ed è stato pubblicato una settimana fa anche in Italia da Corbaccio. Anna Sam racconta in modo molto ironico in questo libro tutte quelle che possono essere le vicissitudini che accadono ad una cassiera, soprattutto a una cassiera che guarda all'atteggiamento a volte veramente molto molto maleducato di noi clienti. E allora l'abbiamo incontrata, insomma, le abbiamo chiesto qual era l'atteggiamento dei clienti che le dava più fastidio. Sentite un po'. Ce que j'ai plus détesté, c'est le téléphone portable. Tra i tanti atteggiamenti, quello che ho odiato di più è l'uso del cellulare. Ne parlo anche nel libro e gli dedico un capitolo. È un chiaro esempio dell'egoismo della gente che passa tutta la vita appiccicata al telefono invece di entrare in contatto con chi gli sta vicino. Quindi è davvero ognuno per sé. Devient chacun pour soi. Fra i tanti episodi che racconta, ce n'è uno che è particolarmente amaro, triste. La mamma con la bambina che dice: guarda che se non studi diventerai come quella signorina lì, indicando appunto la persona che è alla cassa. Ma è successo veramente? Qual è stata la sua reazione? Quando è successo questo episodio avevo poco più di 20 anni. Lavoravo come cassiera da un anno e non osavo rispondere, perciò non ho detto nulla. Però mi sono sentita molto frustrata. Io stavo facendo la cassiera per pagarmi gli studi. Tantissime studentesse fanno le cassiere. La gente non sa chi ha davanti. Molte cassiere sono anche più colte del cliente. E se anche non hanno un diploma, alla fine del mese hanno il loro stipendio, che non è neanche un granché. Il salario che ha alla fine del mese lo merita bene. Qual è stata la reazione delle sue ex colleghe quando lei è diventata famosa per il libro? La migliore risposta che posso dare è questa. Tutte le volte che torno nel negozio dove ho lavorato, e ci torno spesso perché le mie migliori amiche sono le ex colleghe, loro mi rivolgono la parola dicendo: ehi là, la star. In generale me saluto per salut la star. Beh, del resto non è l'unica cassiera ad essere diventata una star, Alessandra, perché insomma se ne parla molto in questo periodo, perché c'è stato anche un caso italiano, la famosa Giusy Ferreri, che insomma cassiera part-time all'Esselunga di un paese vicino a Milano, poi ha fatto la trasmissione X Factor e è diventata una cantante di successo. In realtà, tanto per citarne un paio dall'altra parte dell'oceano, ci sono Michelle Pfeiffer e Sharon Stone, che a loro volta hanno lavorato come cassiere. Quindi in bocca al lupo a tutte le cassiere in ascolto, che magari hanno il desiderio di scrivere libri o di entrare nel mondo dello spettacolo. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. C'è un nuovo caso che riguarda i Lefebvriani. In un'intervista alla Tribuna di Treviso, Don Floriano Abramovitz dice che l'unica cosa certa è che le camere a gas furono usate per disinfettare, mentre non è certo che siano state usate per uccidere. Ma il tempo al sud, a Tropea in Calabria, una frana si è staccata oggi all'alba dal costone che sovrasta la cittadina all'uscita di una galleria. Si scava per liberare la strada, ma anche per verificare che nessun automobilista sia rimasto coinvolto. Francesco Grandi, capo dell'ufficio tecnico del comune di Tropea. Siamo qui all'impianto di depurazione, che stiamo facendo di tutto per evitare che l'acqua e tutta quella fanghiglia entri all'impianto di depurazione, perché se ci salta l'impianto siamo fregati. E sono ormai una sessantina i chilometri dell'autostrada chiusi al traffico per frane o pericolo di frane. Interrotta anche la linea ferroviaria Potenza Battipaglia per una frana fra le stazioni di Roma Agnano e Bellamuro. Spaccatura nell'Italia dei Valori dopo le parole di ieri di Di Pietro. Donadi dice: il capo dello Stato si è mosso bene. Lo stesso Di Pietro sostiene di non aver mai offeso il capo dello Stato. Un nuovo caso di stupro avvenuto nel Piacentino. Una banda di tre romeni ha sequestrato e violentato una prostituta di 21 anni. La Francia si ferma. Oggi sciopero generale, 200 manifestazioni in tutto il paese per protestare contro le riforme volute dal governo. Il picco delle adesioni è previsto nel settore della scuola. Non siamo competenti a decidere, dice la Commissione europea sul caso di Cesare Battisti, l'ex terrorista e pluriomicida al quale il Brasile ha deciso di concedere lo status di rifugiato. Il ministro della difesa, Ignazio La Russa, torna a proporre di non giocare l'amichevole di calcio fra Italia e Brasile. Personalmente, io che avevo previsto di andare a vedere la partita, non ci andrò, perché trattandosi non di una partita ufficiale, fosse stata una Coppa del Mondo, allora era corretto dire no, la politica non deve entrare, le gare sportive non vanno mischiate. Qui si tratta di un incontro amichevole, quindi di una scelta di amicizia. In questo momento non vedo molte ragioni di amicizia col Brasile, quindi io l'abolirei e lo rilancio con forza. Negli Stati Uniti la Camera ha approvato il piano di stimolo dell'economia proposto da Barack Obama. Ora il provvedimento da 825 miliardi di dollari passa al Senato. Nuove tensioni in Medio Oriente, dove questa mattina sono stati lanciati razzi contro il sud di Israele. Tel Aviv ha risposto con un raid aereo che ha colpito, dice l'esercito, un esponente di Hamas. È stato arrestato il progettista dei T-Red, i sistemi di rilevazione delle infrazioni ai semafori. Stefano Arrighetti è accusato di non aver chiesto al Ministero dei Trasporti l'omologazione dell'apparecchiatura, che sfruttando una durata del giallo molto breve faceva scattare un numero elevato di multe. E siamo al World Economic Forum di Davos, in Svizzera, perché ieri è stata la giornata di Russia e Cina. Oggi invece cosa bolle in pentola? Lo chiediamo a Lino Terlizzi, che sta seguendo i lavori. Lino, allora, che cosa succederà e che cosa succede? Direi che la mattinata è stata almeno in parte occupata dall'India, che era il terzo grande paese emergente dopo appunto Russia e Cina, atteso qui sulla scena di Davos. Ha parlato il ministro dell'Industria e del Commercio Kamal Nath, che è un protagonista anche in sede di Organizzazione Mondiale del Commercio, ha sfoggiato un certo ottimismo, quindi è uscito un po' dal coro di quanti dei paesi sviluppati o altrove dicono che le cose vanno molto male. Ha detto: in fondo non vanno poi così male, soprattutto per l'India, ha sottolineato, c'è un rallentamento in alcuni settori dell'economia, certo le cose non sono al meglio, ma abbiamo grande fiducia sul fatto che la crescita economica dell'India rimanga a buoni livelli nei prossimi anni, e quindi ha dato un tocco indiano che sinora non c'era stato sulla scena di Davos. Poi in giornata si sentiranno anche molte voci economiche e politiche invece europee. Chi è previsto per oggi pomeriggio, Lino? Ma sono moltissimi gli interventi, c'è in corso, sta per finire anche un dibattito europeo, tra l'altro, e c'è stato anche il ministro italiano Giulio Tremonti, c'è il banchiere centrale europeo, il governatore della Banca Centrale Europea Jean-Claude Trichet. Sono molti gli interventi che si stanno effettuando e che ancora si effettueranno nel pomeriggio, e poi naturalmente è attesa, ma non si sa ancora bene il programma, l'unica rappresentante Valerie Jarrett dell'amministrazione americana. Grazie Lino Terlizzi in collegamento da Davos per questi aggiornamenti. Tra i settori che stanno soffrendo di più per la crisi, non lo diciamo da oggi, è l'auto. E lo sappiamo, ieri c'è stato un tavolo a Palazzo Chigi fra governo e parti sociali per cercare di mettere a punto un piano di aiuti anche in Italia. Su questo già ieri vi dicevamo, le cifre sono diverse quelle che vengono date. Ieri si parlava di 300 milioni di euro, poi in serata si è arrivato arrivati a 500. Insomma, dal punto di vista delle cifre non c'è ancora tantissima chiarezza, tanto che comunque il governo ha preso una decina di giorni di tempo per stabilire un piano effettivo. Nel frattempo il mercato dell'auto di gennaio, e sono previsioni dell'amministratore delegato del marchio Fiat Auto, Lorenzo Sistino, sarà intorno al 35-40% in meno rispetto al gennaio 2008. Sindacati e aziende spingono perché si faccia in fretta. Il rischio che l'effetto annuncio di incentivi deprima ulteriormente il mercato è forte. Se è così, lo chiediamo a Gianprimo Quagliano, direttore del Centro Studi Promotor. Buongiorno. Buongiorno, no, non è forte, è fortissimo, perché nei primi 10 giorni di febbraio, ammettendo che si debba aspettare fino al 10 febbraio per avere questa decisione, che peraltro mi pare dovrebbe essere scontata, il mercato nei primi 10 giorni di febbraio può calare del 60-70%. E questo perché non si è ancora assunta una decisione che in Francia hanno assunto già da novembre, che in Germania è stata assunta in tempi rapidissimi e che è scontata nei fatti. Quindi, insomma, per capirci, Quagliano, se vengono annunciati dei piani però si aspetta un po' di tempo a metterli in pratica, per esempio quello degli incentivi, la gente dice vabbè, aspetto a comprarmi un'auto perché a questo punto valuto se arrivano gli incentivi o meno. Certamente, se lei può acquistare la stessa auto oggi, che acquista oggi con un certo prezzo e dopo il 10 febbraio con 1.500 euro in meno, che cosa fa? Non la compra, aspetta 10 giorni, non sono niente. Quagliano, secondo lei che cifra andrebbe messa in campo? Si è parlato di 300 milioni, poi di 500, poi di oltre un miliardo, insomma, posto che non è ancora chiara, qual è la cifra che ci vorrebbe per il settore auto? Capirsi, perché intanto gli incentivi alla rottamazione hanno un effetto virtuoso, e cioè fanno aumentare le vendite. Aumentando le vendite aumenta il gettito IVA, che secondo l'esperienza del passato ha sempre coperto il costo stanziato per gli incentivi alla rottamazione. Quindi la cifra è un esercizio puramente teorico, perché alla fine la cifra stanziata per gli incentivi alla rottamazione viene recuperata attraverso il meccanismo dell'IVA sulle auto vendute in più. E in più c'è un'altra questione. Secondo una stima che ha diffuso oggi l'ANFIA, gli incentivi alla rottamazione di 1.500 euro potrebbero portare un incremento del PIL dello 0,5%, che non è poco, vuol dire 7.500 miliardi. Grazie Gianprimo Quagliano, direttore del Centro Studi Promotor, per essere stato con noi e buona giornata. C'è intanto un richiamo dalle parti sociali sui tempi, appunto, come dicevamo, e la certezza delle risorse proprio a partire dal piano di aiuti per il settore auto, mentre crescono complessivamente i timori per le difficoltà che sta vivendo l'economia italiana. Fare presto sperando che non sia troppo tardi. All'annuncio del varo del pacchetto auto del governo in 10 giorni si affianca l'allarme occupazione di Confindustria e sindacati, ma il punto è proprio che il tempo ormai stringe, soprattutto perché gli altri paesi europei si sono già mossi su questo fronte. Secondo le stime di Confindustria, nel primo trimestre dell'anno si potrebbe arrivare, nel caso di un picco negativo, ad un crollo degli ordinativi auto del 60%. Se questo si verificasse significherebbe ricorrere alla CIG per 300.000 lavoratori, di cui 60.000 al Lingotto. Decisioni chiare e rapide sono state invocate anche dal presidente della Fiat, Luca Cordero di Montezemolo, un richiamo all'urgenza condiviso da tutti i sindacati che compatti chiedono che, come vincolo alla concessione di incentivi, il governo imponga alle imprese di mantenere la produzione in Italia e di non chiudere alcuno stabilimento a partire da quelli della Fiat. Secondo segretario generale della CISL Raffaele Bonanni, servono risorse chiare, i nodi vengono al pettine, quello che si è voluto negare prima ora è evidente, ha avvertito il segretario generale della CGIL Guglielmo Epifani. L'UGL propone anche misure fiscali sul modello tedesco, mentre la UIL, pur riconoscendo i limiti della finanza pubblica, ricorda che chi più spende non spende, bisogna evitare il crollo del settore per evitare ripercussioni su tutta l'economia. Anna Marino, GR24, Sole 24 Ore. Torniamo ora a Parigi, non per parlare dello sciopero, ma della moda. Ieri è stato il giorno di Valentino e dei suoi nuovi stilisti. Molta curiosità dopo l'uscita di scena di Alessandra Facchinetti. Cosa è certa, Valentino avrà anche lasciato, ma non è affatto uscito di scena. Ieri, al debutto di Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli come direttori creativi della Maison, lo stilista, ritirato ormai un anno fa, era ovunque. Innanzitutto in prima fila, commosso e partecipe, ma anche in passerella, dove i 40 abiti creati dai nuovi stilisti sembravano usciti direttamente dalla sua matita, facendo sorgere anche qualche dubbio fra i ben informati sulla reale genesi dei modelli. Troppo Valentino per non essere essere Valentino. Chiuri e Piccioli si difendono dicendo che lavorano sugli accessori del marchio da 10 anni. Sulla passerella intanto sono sfilati piccoli completi bianchi con rose drappeggiate, un abito grigio perla da 180.000 euro e non poteva mancare un abito rosso, colore simbolo della Maison. Per realizzarlo le sarte hanno dovuto utilizzare 8.000 spilli. Ne è bastato uno invece a Valentino per pungere a distanza ancora una volta Alessandra Facchinetti, già cacciata a mezzo stampa dopo appena una sfilata. Non ha fatto cose sbagliate, ha detto lo stilista, ma le donne che creano vestiti pensano più che altro a loro stesse. Saranno fischiate le orecchie a Miuccia Prada e Frida Giannini? Ora la palla passa ai clienti che avevano acquistato con il contagocce le creazioni della Facchinetti. Al di là delle rivalità, infatti, sembra essere stato questo il vero motivo dell'addio. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. C'è un nuovo caso che riguarda il Lefevriani. In un'intervista alla Tribuna di Treviso, Don Floriano Abramovitz dice che l'unica cosa certa è che le camere a gas furono usate per disinfettare, mentre non è certo che siano state usate per uccidere. Maltempo al sud, a Tropea in Calabria, una frana è caduta all'alba all'uscita di una galleria, si scava per liberare la strada. Spaccatura nell'Italia dei Valori dopo le parole di ieri di Di Pietro contro Napolitano. Donadi dice il capo dello Stato è super partes. Di Pietro, per parte sua, sostiene di non aver mai offeso il Presidente della Repubblica. Un nuovo caso di stupro avvenuto nel Piacentino. Una banda di 3 romeni ha sequestrato e violentato una prostituta di 21 anni. La Francia si ferma. Oggi sciopero generale, 200 manifestazioni in tutto il paese per protesta contro le riforme volute dal governo. Il picco delle adesioni è previsto nella scuola. Non siamo competenti a decidere, dice la Commissione europea, sul caso di Cesare Battisti, l'ex terrorista e pluriomicida al quale il Brasile ha deciso di concedere lo status di rifugiato politico. Intanto il ministro della difesa Ignazio La Russa torna a proporre di non giocare l'amichevole di calcio fra Italia e Brasile. Il mercato dell'auto scenderà fra il 30 e il 40% nel mese di gennaio rispetto ad un anno fa, dirlo è l'amministratore delegato di Fiat Auto Sistino, attesa per il piano del governo. Nuove tensioni in Medio Oriente, dove questa mattina sono stati lanciati razzi contro il sud di Israele. Tel Aviv ha risposto con un raid aereo che ha colpito, dice l'esercito, un esponente di Hamas. È stato arrestato il progettista dei T-RE, dei sistemi di rilevazione delle infrazioni ai semafori, accusato di non aver chiesto al Ministero dei Trasporti l'omologazione dell'apparecchiatura. In questi giorni stiamo parlando molto di stupro, di violenza sessuale ai danni delle donne per i casi che abbiamo rilevato nelle ultime settimane. Purtroppo se ne parla molto quando naturalmente fa notizia anche per ragioni politiche, quando diventa un problema di sicurezza nelle città. Ma purtroppo le violenze sessuali avvengono, potremmo dire, quasi quotidianamente. Quasi quotidianamente. Fa molta notizia quando naturalmente le vittime sono italiane. Un altro caso: nella notte nel Padovano il sequestro e lo stupro di una prostituta da parte di una banda di romeni. Notte d'inferno per una giovane prostituta padovana prelevata dalla strada dove aspettava clienti da una banda di 3 romeni che abitano in provincia di Piacenza. La donna, 21 anni, di origine bulgara, è stata picchiata e violentata, caricata su un'auto e portata fino a Fiorenzuola d'Arda, a circa 200 km da Padova, dove probabilmente i 3 l'avrebbero costretta a prostituirsi. Prima di subire l'ennesima violenza, la giovane è riuscita a sfuggire chiedendo aiuto agli operai che stavano entrando nelle fabbriche della zona industriale dove l'auto dei romeni si era fermata. I 3 sono stati arrestati dai carabinieri dopo la denuncia della donna, che ha fornito gli elementi utili a individuare la vettura. Nell'abitazione dei presunti aguzzini, 2 giovani di 23 anni e un uomo di 40, tutti pregiudicati e senza occupazione, i militari hanno trovato 4 pistole e cellulare rubato alla prostituta. Antonino Padovese, GR24, Sole 24 Ore, Padova. È notizia di poco fa che un gruppo di pirati somali ha sequestrato una petroliera tedesca nel Golfo di Aden. La notizia è stata riferita da Nairobi, secondo un ente di assistenza alla navigazione del Corno d'Africa. E parliamo di un'altra nave, in realtà di un traghetto, quello che nella notte tra Genova e la Sardegna è andato in fiamme, insomma c'è stato un incendio. Sulla motonave Atara proseguono gli interventi di bonifica del garage, si rimuovono i mezzi danneggiati dalle fiamme e si sviluppano gli accertamenti per stabilire le cause dell'incendio divampato ieri sera in due momenti diversi nella stiva del traghetto salpato da Genova e diretto a Porto Torres. Il primo allarme è scattato mezz'ora dopo la partenza, mentre l'Atara si trovava a 7 miglia al largo della costa ligure. Scene di autentico panico tra i 124 passeggeri. L'equipaggio ha domato le fiamme prima dell'arrivo delle motobarche dei vigili del fuoco e delle motovedette della capitaneria. Quindi si è decisa l'inversione di rotta e rientro del traghetto a Genova. Dopo l'attracco e con i passeggeri ancora a bordo, le fiamme hanno ripreso a divampare nel garage, pare in seguito alla riaccensione dell'impianto di ventilazione. Di nuovo attimi di sterrore a bordo, con il fumo che si è propagato in fretta ai ponti superiori della nave. Di qui la decisione della capitaneria di evacuare il traghetto. Rabbia tra i passeggeri, c'è chi accusa l'equipaggio di aver sottovalutato i pericoli. Alcuni di loro sono stati visitati in ospedale per un principio di intossicazione. Secondo la Guardia Costiera invece, il comandante e l'equipaggio hanno agito con tempestività e professionalità. Andrea Ferro, GR24, Sole 24 Ore, Genova. Hanno suscitato molto scalpore le dichiarazioni del presidente della Corte d'Appello di Milano, che ieri durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario aveva definito il carcere milanese di San Vittore come una casa di torture. Oggi la nostra Raffaella Calandra ha varcato il portone di San Vittore. Raffaella, allora, che idea ti sei fatta? Dietro le grate un susseguirsi di pile di letti a castello colorati. Nel terzo raggio di San Vittore l'affollamento lo percepisci subito dal numero di occhi che da dietro le sbarre osservano i volti nuovi superare i cancelli. La maggioranza sono stranieri e per muoversi nelle celle devono coordinare i movimenti. 1300 sono attualmente gli ospiti, 700 sarebbero quelli regolari, quasi il doppio dunque, una cifra che con due raggi chiusi perché fatiscenti e un terzo in attesa di ristrutturazione, il sesto, è la misura degli attuali disagi che nessuno tra gli operatori nega, respingendo però con amarezza la definizione del presidente della Corte d'Appello Grechi che ieri, come dicevate, ha parlato di torture. Sentiamo il provveditore dei penitenziari lombardi, Luigi Pagano. In un reparto effettivamente è super affollato, però nei tre reparti aperti due sono stati ristrutturati di recente. C'è un'ossessione maniacale di tutela della salute e del detenuto, quindi non ci sentiamo assolutamente torturatori, non credo che siamo a Guantanamo. Dentro le mura si ricordano i lavori di ristrutturazione bloccati in attesa di una definizione del progetto per la cittadella giudiziaria. Per gestire anche la costruzione delle nuove carceri è stato appena nominato commissario straordinario il capo del DAP, Franco Ionta, che ha bollato come offensive le parole di Grechi. Sono inaccettabili perché le parole hanno un peso. Le strutture penitenziarie soffrono di sovraffollamento. E per ora è tutto. Grazie Raffaella Calandra ed è tutto anche per questa edizione della GR Extra Large, curata e condotta da Alessandra Tedesco e da Simone Spezia. Al coordinamento c'è stato Daniele Biacchesi, in regia invece Peter Bescapè. Se volete scriverci, come sempre potete farlo, extralarge@radio24.it. potete riascoltarci e riascoltare anche tante altre cose su www.radio24.it. Il prossimo GR ve lo ricordiamo alle 15, noi ci risentiamo domani sempre alle 13. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.